il buco. Hai visto il buco? Ah, signorina, hai visto il buco? E dov'è il buco? All'Italia è venuto a Sud America, ora mi chiamano il maschio delle pampe argentina. Signorina, mi permette, io posso accompagnarla, faccio cicerone, a Roma la conosco bene. Signorina, ma io voglio il buco. Ah. Sono Massimo Tordi alla sua disposizione, servizio speciale e completo. Amici! Este pianista. E dov'è il buco? Bellissimo. Sono nato all'Italia e venuto a Sud America, ora mi chiamano il maschio delle pampe argentina. Signorina, mi permette, io posso accompagnarla, faccio cicerone, a Roma la conosco bene. Signorina, ma io voglio il buco. Ah. Sono Massimo Tordi alla sua disposizione, servizio speciale e completo. Amici! Come me gusta. Ma io voglio il buco.